I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. L'allargamento dell'arco delle forze politiche che chiedono a questo punto una commissione d'inchiesta sulle banche e soprattutto sui dissesti di alcune di esse deve essere salutata come un fatto positivo. Il Paese infatti non si può permettere di trasformare il tema delle sofferenze bancarie e della cattiva gestione di alcune banche in uno scontro puramente politico. Tutto bene dunque, ma con due obiezioni o perlomeno perplessità. Il primo riguarda l'obiettivo della commissione stessa. Indagare sul sistema bancario in generale è un obiettivo talmente ampio da rendere inutile qualunque commissione parlamentare, al di là della sua scadenza, che al più tardi potrebbe arrivare al febbraio del 2018, quando si andrà comunque ad elezioni. Meglio concentrarsi su alcuni casi e non diluire nel mare magnum del sistema bancario i buoni e i cattivi. Il secondo aspetto riguarda proprio la lista dei prestiti ottenuti dai primi 100 o 150, vedremo dove sarà posta la soglia, creditori insolventi. Anche qui servirà moltissima precisione. Un conto è giudicare una banca che ha concesso un credito a un imprenditore che ne aveva tutti i requisiti e che poi durante questa crisi ha avuto problemi a restituire il prestito. Altra cosa è invece valutare e criticare e censurare prestiti dati solo agli amici degli amici senza nessun merito bancario. Se non si farà questa distinzione, anche in questo caso si rischierà di generare un calderone unico in cui verranno penalizzati gli imprenditori che giustamente hanno avuto il credito e verranno, tra virgolette, salvati imprenditori o persone fisiche che i crediti hanno avuti per altri canali, tutti ancora da stabilire. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Il referendum sulla legittimità del nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si farà. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito proposto dalla CGIL, quesito che puntava a reintrodurre, in caso di licenziamento illegittimo, l'obbligo di reintegrare il lavoro al suo posto di lavoro invece che corrispondere un'indennità come prevede ora il Jobs Act. Di segno opposto invece la valutazione della Consulta sugli altri due quesiti referendari, quello sull'abolizione dei voucher per i piccoli lavori e quello sulla reintroduzione di una forma ampia di responsabilità in solido negli appalti. Non conosciamo ancora le motivazioni che stanno alla base delle decisioni della Corte, decisioni che in realtà rispecchiano le previsioni della vigilia, anche se in effetti negli ultimissimi giorni qualche incertezza era sorta in modo specifico proprio sul più delicato dei quesiti, anche sotto il profilo politico, ovvero quello sul ritorno al vecchio regime dei licenziamenti. Ora si apre una fase in cui si dovrà capire se le modifiche normative che il governo vorrà proporre, in particolare proprio quelle sui buoni lavoro per evitare gli abusi che sembra nascondere il boom nell'uso di questo strumento, saranno sufficienti per evitare di andare alle urne, cose che altrimenti potrebbe avvenire in primavera inoltrata. Ricordiamo che ogni nuova norma per evitare il voto dovrà però passare al vaglio dell'Ufficio Centrale per il Referendum della Cassazione, che dovrà verificare se sia aderente all'istanza del quesito referendario. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.